Italia in controluce. 26 ottobre, seconda edizione di Italia in controluce. Eccoci di nuovo a raccontare storie di cronaca italiana attraverso la narrazione e reportage. Buongiorno da Daniele Biacchessi. La politica spesso appare lontana dai problemi delle persone, si dice. A Milano c'è un'iniziativa di politica dei cittadini per i cittadini. Fino al 6 novembre va avanti la raccolta delle firme per 5 referendum su mobilità e ambiente. Una rivoluzione verde che potrebbe investire la città. Alessio Maurizi. Ogni giorno i quotidiani sono pieni di pagine di politica. Annunci, scontri, correnti, vertici. Niente di male, intendiamoci. La politica è l'arte della mediazione, si sa. Però ogni tanto fa bene sapere che ci sono in giro delle idee su come risolvere problemi concreti e delle proposte, diciamo, operative. È l'obiettivo, né più né meno, della campagna per 5 referendum sulla mobilità e l'ambiente a Milano, promossi da un comitato di politici e associazioni ambientaliste. Uno degli animatori è l'ex assessore di Milano, Edoardo Croci. Quello del ticket d'ingresso in città, per intenderci, l'Ecopass, e su quel progetto si è giocato il posto. Questa iniziativa è nata dalla consapevolezza di un bisogno dei cittadini milanesi, quella di avere una città più amica all'ambiente, più vivibile, in cui non si voglia fuggire ogni weekend per lasciare una città per l'aria non respirabile, in cui i bambini possano vivere la città come merita una città europea, la città dell'Expo. E da qui è nata un'intesa con una serie di personalità del mondo, della cultura, della politica, del sociale, dell'ambiente, e abbiamo deciso di promuovere questi 5 referendum per l'ambiente che chiedono una propria trasformazione urbana, io direi una rivoluzione, la città che vorremmo, la città che potrebbe essere, però per farlo abbiamo bisogno di 15.000 firme. 5 quesiti dunque per promuovere una riforma urbana nel nome della mobilità e dell'aria pulita, spiega Croci. Il primo è il tema del traffico, che richiede di pedonalizzare gran parte del centro e di estendere il meccanismo di tariffazione a tutti i veicoli, reinvestendo i ricavi per trasformare la mobilità in città, quindi trasporto pubblico, bike sharing, car sharing, piste ciclabili, aree pedonali. Il secondo riguarda il verde con il raddoppio degli alberi e le aree destinate a verde pubblico. Il terzo riguarda l'energia, per avere dei sistemi energetici più puliti, ad esempio sviluppando il teleriscaldamento. Poi c'è il tema dell'Expo, un'Expo non cementificata che restituisca un grande parco fruibile ai milanesi, e l'ultimo riguarda le acque, con il ripristino della Darsena come porto di Milano e anche, laddove possibile, riaprendo parte dei navigli. Nel comitato promotore anche i Verdi e i Radicali. Forte è stata la spinta di numerose associazioni cittadine, Legambiente, Italia Nostra, Genitori Antismog. E proprio nelle scuole, come una valanga, le adesioni si sono moltiplicate, come racconta Giuseppe Perucelli. La risposta a questa richiesta è stata sin da subito molto forte. Ci hanno immediatamente risposto una cinquantina di volontari in rappresentanza di circa 40 scuole, pronti a lavorare per raccogliere, per organizzare banchetti davanti alle scuole. Poi è maturato quello che può essere visto un effetto valanga, cioè gli attivisti e le scuole che stavano raccogliendo firme hanno coinvolto altre scuole, per cui l'effetto si è sotto certi aspetti rovesciato. Non eravamo più noi andare a cercare le scuole o le persone, ma erano le persone che interessate venivano a cercare noi. Perché noi da genitori abbiamo la sensazione, innanzitutto tocchiamo con mano le tossi dei nostri bambini e le malattie dei nostri bambini. Quindi questo è il motivo fondamentale di attenzione, perché i bambini respirano una quota più bassa, sentono molto di più lo smog e possono avere anche deficit nello sviluppo dei polmoni. Eppure a volte sembra che sui guasti dell'aria inquinata e sui possibili rimedi prevalga la voglia di mettere la testa sotto la sabbia. Si minimizza e ci si dice che in fondo non si sta così male. Ma per Edoardo Croci invece occorre agire. Beh, io credo ci sia consapevolezza a Milano. I dati scientifici ci dicono che potremmo vivere un anno e mezzo in più se l'ambiente e la qualità dell'aria fosse diversa, ci dicono che potremmo risparmiare 1.000 morti all'anno, ci dicono che avremmo molte meno malattie respiratorie per i bambini, quindi io credo che i milanesi siano consapevoli del tema. La risposta deve essere politica. La politica qualcosa ha fatto, io stesso credo di aver contribuito con una serie di innovazioni, ma non abbastanza, cioè bisogna avere coraggio di andare oltre, di superare i veti, le lobby, i timori e gli ostacoli politici e di avere una visione di città davvero europea. Se guardiamo ad altri casi esteri, vediamo che questo è possibile. Italia in controluce. Ragioniere al carcere di Napoli, ogni sera perde al tavolo i soldi che ha rubato dalla cassa, finché non sceglie di puntare tutto sull'amore per Lila. La regia è di Stefano Incerti, la sceneggiatura dello scrittore Diego De Silva. Ma Gorbaciov, questo è il titolo del film con la F, si regge soprattutto su una straordinaria prova d'attore, quella di Tony Servillo. Marta Cagnola ha intervistato Stefano Incerti. Bisogna fare attenzione all'accento e alla S finale, Gorbaciov, come lo direbbero a Napoli, perché il soprannome che hanno dato a questo Marino Pacileo, che è un contabile cassiere del carcere Poggioreale, la cui trama, la cui storia è ispirata a un fatto vero di cronaca che avevo letto su un giornale, tra l'altro del Nord, che si intitolava appunto Il cassiere col vizio del gioco. L'ho portato giù a Napoli, la mia città, facendo attenzione anche a toccarla un po', Napoli, perché insomma sono 15 anni che non facevo un film a Napoli, perché è una città meravigliosamente fotogenica, ricca di spunti, ma anche pericolosa, perché insomma il cliché, lo stereotipo è sempre dietro l'angolo, e stavolta invece avevo la possibilità di raccontare, come dire, una storia piccola di un uomo che normalmente nei film sarebbe relegato al ruolo di comparsa, ecco, e che diventa protagonista attraverso una storia d'amore con una in realtà mai consumata, con una giovane cinese che lavora nel retro del ristorante dove lui va a giocare a carte, a poker, con i soldi che ogni tanto si fa prestare, tra virgolette, dalla cassa del carcere. Niente che mi piace questo posto. E a te che ti piace, quel bacio? Questa Napoli però l'hai dovuta affrontare. Come mai hai deciso di tornare cinematograficamente parlando a Napoli, e come l'hai affrontata, visto che poi in questi anni forse è diventato ancora più difficile trovare uno sguardo, visto che in tanti l'hanno raccontata? Sì, la città vive un momento abbastanza delicato, è tornata ad essere una città pericolosa, insomma, più vicina agli anni 80, ecco, che agli anni 90, quando si parlava di rinascimento napoletano, e simile alla New York degli anni 70, insomma, le pistole costano poco e anche la vita umana. E aspettavo una storia che fosse originale, che avesse il taglio giusto. Tra l'altro è da 20 anni che conosco Tony Servillo, da quando avevo lavorato come direttore di produzione al film Morte di un matematico napoletano, quindi insomma, come dire, c'è sempre la possibilità di raccontare cose già viste, già dette, un po', come dire, l'immagine di cartolina che volevo evitare. Tutto questo però, c'è anche il tema inevitabile dell'interculturalità, perché c'è un incontro particolare, c'è anche un pretesto narrativo per cui il dialogo deve passare attraverso un piano che non sia quello della lingua. Assolutamente, inizialmente il luogo della cinese, c'era cioè una ragazza napoletana, il film era diciamo più banale, poi ci siamo accorti che insomma volevamo altro, ecco, volevamo qualcosa di diverso e che cogliesse anche appunto questa integrazione che a Napoli è abbastanza, come dire, riesce meglio forse che al nord. Napoli è una città molto accogliente, anche troppo, perché, come dire, poi molti extracomunitari, la parte diciamo malata dell'integrazione c'è, e fanno concorrenza ormai alla camorra napoletana, leggevo l'altro ieri di un killer cinese, insomma siamo già oltre l'integrazione. E comunque invece, ovviamente, trasformando la ragazzina in cinese, insomma convogliando in questa storia un altro progetto che coltivavo da tempo, inevitabilmente la sceneggiatura si è dimezzata dei dialoghi, perché la protagonista non parla una parola d'italiano come nella realtà l'attrice, e quindi tutti i dialoghi sono stati tra di loro, sono stati sostituiti da sguardi, da situazioni. Il film ovviamente si è involato, ecco, insomma è diventato un'altra cosa, più cinema di poesia, se uso una parola grossa, che di prosa, ecco. Non ho capito. Non ti preoccupare, ti smetti. Vediamo l'aereo. Qual è secondo te la realtà del cinema napoletano e degli autori napoletani oggi, dopo tanti anni in cui se ne parlava come un fenomeno emergente, anche dirompente? Io credo che, come dire, quello che accomuna tutti i film napoletani, e per esempio a Venezia quest'anno ce n'erano 3 o 4, c'era il film di Martone, che comunque è sul Risorgimento ma ambientato anche dalle nostre parti, c'era il film di Antonio Capuano alla Settimana degli Autori, ecco. Quello che forse caratterizza il cinema napoletano è che provando tornando a non essere romacentrico, si deve inventare, e quindi un po' autarchico anche produttivamente, si deve inventare delle strade che magari sono più ostacolate, nel senso che è più difficile ovviamente raggiungere il budget, mettere su l'operazione, come dire, che in qualche modo precede le riprese, ma che si può permettere anche di distaccarsi da certi sentieri troppo battuti, quindi non necessariamente la commedia, non necessariamente quegli attori, eccetera eccetera, e questo forse è, come dire, da una parte è un limite, dall'altra è anche un grosso vantaggio, perché permette appunto di sperimentare, che poi è la cosa che fa in qualche modo apparire questi film come dei piccoli UFO in Italia, ma poi venderli e distribuirli in tutto il mondo come se fossero appunto dei film di livello internazionale. La seconda edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate, radio24.it. Per comunicare con noi, Facebook, Radio 24 Italia in Controluce, Twitter, in Controluce, mail, controluce@radio24.it. Filippo Auregi, un ringraziamento per editing e montaggio. Torniamo domani 6:30 su Radio 24.